che voglia salvarmi da sti giorni in cui rischio di schiantarmi. Ho bisogno di sparare a quei fantasmi. È rosso del giorno che scende mi placca. Mi rilasso su una macchina e penso te che mi manchi sulla pelle mentre la mia mente viaggia ubriaca. E non ho voglia di pensare al resto e mi disperdo. Ho bisogno soltanto di una pausa. Voglio solo staccare la spina, onesto con tutti. Mi congedo finché passa la nausea. E ora che ho quello che voglio non c'è più ragione di scappare via. Popcorn di VX a casa, volevo soltanto una pausa. Ora ho quello che voglio e non c'è più ragione di scappare via. Stanotte resto fuori in casa, volevo soltanto una pausa. Una pausa. Una pausa. Una pausa. E mentre ascolto del blues ti scrivo, so che sei lontana per un po'. Rivivo i giorni in cui tutto filava tranquillo. Io addosso a te, tu su di me come un adesivo. E adesso guardo il mondo dal basso, mi rilasso. Finalmente relax e materasso. Mangio schifezze da ingrasso. Un beat con sax e basso. Sta giornata va così. Un pretesto nient'altro. E io mi ripresento a me stesso e mi esalto e lo canto. Magari non ne frega niente a nessuno, ma mi specchio e lo faccio e fregherà quell'altro. Mi sento stupido, bene quello che voglio. Già, ecco fatto, sprecato un altro foglio. Però mi sono divertito e molto e tutto ho imparato a mettere da parte l'orgoglio. Però ora pausa. E ora che ho quello che voglio non c'è più ragione di scappare via. Popcorn di VX a casa, volevo soltanto una pausa. Ora ho quello che voglio e non c'è più ragione di scappare via. Stanotte resto fuori. Pausa. Pausa. Attacco stranissimo. E ora che ho quello che voglio non c'è più ragione di scappare via. Popcorn di VX a casa, volevo soltanto una pausa. Ora ho quello che voglio e non c'è più ragione di scappare via.